Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Niccolò Branca. L'Elisir da 5 generazioni. A cura di Anna Marino. Sicuramente il prodotto, il gusto è un prodotto che ha carattere e quindi è un prodotto che si deve anche scoprire e non è un prodotto che uno beve ed è facilissimo la prima volta, proprio per l'insieme di radici e di erbe particolari, però come tutte le belle cose quando uno le incomincia a scoprire le apprezza e quindi ha un potere aggregante e salutistico. È la formula segreta del Fernet Branca, quella di cui parla il conte Niccolò Branca, presidente e amministratore delegato di Branca International S.p.A., la holding a totale capitale italiano che fa capo alla famiglia omonima. Operativa dal 1998, ha sede a Milano e controlla le società dedicate alla produzione e commercializzazione di spirits, l'italiana Fratelli Branca Distilleria S.r.l. e l'argentina Fratelli Branca Distillerias S.a., realtà in forte sviluppo e attive commercialmente in oltre 160 paesi nei 4 continenti. Ma l'attività industriale del gruppo, da oltre 165 anni, leader nel settore degli spirits, ha avuto inizio nel 1845, con la creazione da parte di Bernardino Branca dell'amaro diventato famoso in tutto il mondo, pensato all'inizio come rimedio venduto in farmacia per curare malesseri insieme allo svedese dottor Fernet, da cui prese il nome. Niccolò Branca ricorda i lontani albori legati alla fortuna della formula grazie a miscellanea e dosaggio delle erbe, segreto tramandato di generazione in generazione. Della fondazione io ho risaputo una buona memoria, però la fondazione è stata nel 1845 e quindi mi è un po' difficile, però per sentito dire e per raccontato so perfettamente che nel fine dell'840 mio bisbisnonno Bernardino Branca ha inventato questa formula spinto da una volontà di fare bene, perché appunto il prodotto nasce come prodotto salutistico per la digestione, per lo stomaco. La cosa caratteristica di questo prodotto sta proprio nel fatto di erbe e radici che vengano da 4 continenti. Se uno pensa alla fine dell'840 a far venire aloe, zafferano, zedoaria, prodotti, erbe da tutte, voleva veramente dire che era un qualche cosa di particolare. Siccome la formula viene passata di mano in mano, in generazione, mi sono dovuto buttare nel capire tutti i vari ingredienti, le miscellane e tutto, mi sono reso conto di come veramente questa formula ha dentro di sé dei poteri veramente particolari, perché il segreto sta proprio nella miscela. E allora io ho visto che quando appunto se cambio solo di poco la miscela, si riesce più a fare quello che è il Fernet Branca. Il segreto è proprio lì, infatti vediamo che nel 1860, 1855, 57, quando ancora non c'era l'Unità d'Italia, il prodotto era riconosciuto e aveva dei riconoscimenti anche da parte di tutto il mondo, proprio per i suoi effetti benefici, quello che oggigiorno in comunicazione si dice appunto che quello che promette mantiene. Il racconto di Niccolò Branca si snoda durante la visita alla collezione Branca. Allestita nel complesso industriale di Milano, occupa oltre 1000 metri quadrati. Un percorso che accompagna il visitatore a rivivere la storia dell'azienda, a respirare gli aromi, a vedere da vicino gli strumenti artigianali degli inizi, i cartelloni pubblicitari di fine 800 e primi 900, a seguire l'evoluzione della tecnica e dell'innovazione. Niccolò Branca ripercorre la storia a partire dai primi quadri di famiglia, citando una figura femminile chiave, quella di Maria Scala, moglie di Stefano Branca, figlio del fondatore. Governa l'azienda con successo fino alla maggiore età del giovane Bernardino. Sicuramente sono stati importanti Bernardino Branca, il fondatore, quello che ha inventato la formula, i figli che hanno spinto il padre a mettere su la prima azienda in Porta Nuova, perché la prima azienda è stata fatta nel 1845 e lui produceva ma non aveva messo su un'azienda perché era spinto proprio da fare un prodotto per aiutare le persone. Quindi i figli che gli hanno spinto a dire ma mettiamo su un'azienda. Poi sicuramente poi dopo c'è stata una donna che appunto è riuscita, perché purtroppo gli è morto il marito giovane, è riuscita ai primi del Novecento a mandare avanti un'azienda, quindi se pensiamo ai primi del Novecento, ed è stata una donna che ha dato un impulso veramente molto forte, soprattutto sotto il profilo del marketing, della comunicazione, le fiere, andava lei personalmente a tutte le fiere. Quindi se uno torna a quell'epoca, poi sicuramente c'è stato il nonno mio, che è Bernardino, che anche lui si chiama Bernardino, che è stato quello che ha dato sicuramente un impulso a quello che era l'internalizzazione nella costruzione dei siti produttivi. Poi dopo c'è stato mio padre negli anni 50 e mio zio Giuseppe Branca anche, quindi per Luigi e Giuseppe Branca, poi dopo, che sono stati quelli che hanno portato anche l'azienda, diciamo, dal 50 agli anni 80 in su. La sede delle distillerie Branca è da sempre un punto nevralgico a Milano, da Porta Nuova a Via Resegone, come spiega Niccolò Branca. Se uno vede i poster di quello che era il sito produttivo un tempo, intorno allo stabilimento c'era la campagna e oggi sicuramente non lo è più. Il fatto di avere questo sito, sicuramente il sito trasmette quello che è l'anima del prodotto e l'anima della società, e quindi è un aspetto anche, credo, molto importante anche a livello culturale, proprio per quello che da qualche mese abbiamo aperto anche questo percorso storico al pubblico, per far sì che sia un qualche cosa per tutti, che tutti possano capire quello che vuol dire essere azienda, perché essere oggigiorno azienda, a volte magari uno perde quello che è il contatto con la produttività e pensa che magari l'imprenditoria solo sia fatta solamente di un aspetto, di un aspicchio che può essere la finanza. Invece l'aspetto di un'azienda è un aspetto complesso, fatto sì di finanza, di marketing, di commerciale, ma c'è tutta la parte produttiva che è la parte dell'anima, perché è da lì dove si fa il prodotto. E allora credo che oggigiorno sia anche importante il poter trasmettere quello che è veramente il contatto con la terra. Novare serbando. È questo il motto che accompagna Branca nella sua storia più che centenaria e che ha profondamente inciso sulle scelte strategiche, il modo di lavorare e il rapporto con i clienti. Niccolò Branca spiega come si è tradotta in concreto questa massima. La filosofia è innovare serbando, perché appunto quello che per noi è molto importante è proprio quello di serbare determinati aspetti, che sono appunto quelli della formula, la qualità. Quindi i nostri prodotti sono tutti fatti con qualità. Pensi che il Fernet Branca è invecchiato un anno in botte di rovere, lo Stravecchio Branca, il Brandy 3 anni, il Brancamento 1 anno. Quindi c'è una passione, una volontà e un lavoro sulla qualità molto molto importante, per noi uno dei primi aspetti. Però tutto questo deve essere anche legato a quello che è l'innovazione. Infatti l'azienda oggi è un'azienda che è strutturata come un'azienda managerializzata. L'internazionalizzazione, le realtà produttive e la crescita dell'azienda nel mondo e nel tempo. Fattore che si intreccia con l'ingresso di Niccolò Branca in azienda e con il suo contributo allo sviluppo dell'azienda. Lo sviluppo dell'export, la crescita dell'Argentina, l'ampliamento del portafoglio prodotti, che oggi, oltre agli amari, contano anche la grappa Candolini, il liquore dolce caffè Borghetti, il vermouth come punte messe e l'impostazione di un assetto moderno organizzativo per la gestione del gruppo. Nel 2007 è stato nominato professore onorario all'Universidad del Salvador di Buenos Aires. Niccolò Branca spiega perciò qual è stata la spinta ad aprirsi, di cui lui è stato il protagonista. Bisogna avere nella vita intelligenza, cuore e coraggio, sono tutte e tre, perché insomma una da sola non funziona. Sicuramente l'esperienza internazionale è appunto all'interno della società, e una delle volontà che abbiamo fatto in questi ultimi, diciamo, 10 anni è proprio quella di risviluppare moltissimo tutta la parte internazionale. L'Argentina per me è stata l'esperienza, diciamo, più bella e interessante sia sotto un profilo lavorativo anche umano. Io ho iniziato in azienda proprio occupandomi dell'Argentina e nel 99 l'azienda faceva un determinato numero di litri. Nel giro di 2 anni è arrivato il default dell'Argentina e quindi ho dovuto lavorare in una situazione veramente particolare che se uno non la viveva non la poteva capire, e poi la ricostruzione dopo il default. Oggi l'Argentina fa 4 volte in più quello che faceva nel 99. L'equilibrio nella vita come una ricetta, segreta o meno, che ha dosi giuste. Credo che la ricetta stia proprio nell'equilibrio. L'equilibrio credo che sia la ricetta non solo per il lavoro ma per la vita. Quindi l'importante nella vita è trovare ognuno di noi un equilibrio, questo centro che c'è all'interno di noi. Quando uno è ben centrato in se stesso poi riesce a trovare l'equilibrio tra il lavoro, la famiglia, le passioni, il modo di essere, gli sviluppi personali e tutto. La famiglia Branca è oggi ancora presente al completo in azienda. Oltre a lui ci sono lo zio di Nicolo Branca, il conte Giuseppe Branca, vicepresidente di Fratelli Branca Distillerie, poi la sorella Ilaria Branca, che è brand ambassador di Fratelli Branca Distillerie, e la cugina Maria Teresa Branca, che gestisce i rapporti con l'AIBES, l'associazione italiana barman e sostenitori. Ecco come si gestiscono i passaggi generazionali in famiglia. Nel Novecento, appunto, mio nonno è stato insignito con una serie di onorificenze e nel motto della famiglia c'è scritto «Non mi sed filis», e quindi vuol dire «non per me ma per i figli». E questo motto è un motto che se uno va un po' alla radice e ci riflette sopra, vuol dire che c'è qualche cosa di etico dentro, ovvero tu non devi pensare alle cose in un senso di possesso che siano tue, ma il bene della situazione deve essere al di sopra del tuo bene. E quindi questo è quello che credo che abbia un po' guidato tutta la famiglia. Prima è la società, il bene della società, prima è la continuità, e su questo poi vengono fatte le scelte. La comunicazione attraverso simboli e il rapporto costante con la cultura nasce nel 1893 ad opera di Leopoldo Metlikovitz con il mondo Branca, l'immagine dell'aquila che ad ali spiegate afferra il globo terrestre e poi passa per la Torre Branca, restituita ai milanesi dopo un restauro dell'originale creato da Gio Ponti negli anni 30, ma anche legami con poeti e scrittori come D'Annunzio, sportivi come Cassius Clay, attori come Totò. Nelle prime bottiglie di Fernet Branca il mondo con l'aquila, che è il simbolo, diciamo, sia della Branca e di vari prodotti della Branca e specialmente Fernet Branca, non esisteva. Entra nel 1892-93 con Metlikovitz, che inventa questo simbolo qui, che secondo me è stato veramente geniale, perché ha visto un prodotto che alla fine dell'Ottocento era venduto in tutto il mondo e ha preso l'aquila come simbolo di purezza, di chiarezza, come carattere, perché il Fernet Branca ha carattere, come però anche autenticità, e l'ha messo sul mondo. E le pubblicità, secondo Nicolo Branca, sono ormai entrate nell'immaginario di tutti. Le pubblicità sicuramente, diciamo, quelle della Branca hanno fatto storia, perché se uno clicca su Carosello, Fernet Branca viene fuori con la sua plastilina, il bicchiere col ghiaccio, il brut di Branca Menta, e sono sicuramente storiche, la musica. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.